YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia due per tre, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada pantarei, singing in the rain, lezioni di Nirvana, c'è butta in fila indiana, per tutti uno. Potevamo cominciare a parlare perché io e Filippo in regia stavamo facendo il balletto. Sì, ma Marta, ma allora state sentendo la canzone vincitrice di Escita 2000? No! Per favore, scherzo, ma fammi toccare tutto quello che posso toccare. Scherzo. E non abbiamo mandato Occidentali Scarma perché RadioTube è in crisi di ascolto, perché ormai basta mettere Occidentali Scarma che zoom, se poi metti le parodie. No. Sai cosa ho ottenuto questa settimana? Cosa? 100 milioni di visualizzazioni su YouTube. Cioè, vabbè, adesso pare che sia la canzone italiana, il video con una canzone italiana più visualizzato di sempre. No, ma c'ho un'ansia. No, spieghiamo per allora spieghiamo allora, tutto. Spieghiamo. Allora, chi vince Sanremo è come chi vince il campionato, che l'anno dopo può giocare la Champions League. Sì. Chi vince Sanremo può andare a Escita. Eurovision Song Contest, hashtag Escita, che significa Esc Ita, Eurovision Song Contest Ita, perché poi quando c'è in onda l'Eurovision Song Contest, per seguire solo l'hashtag del proprio paese si mette Ita. Quindi Gabbani è che va a Eurovision, sì, è come il Real Madrid che va a giocare la Champions League. Ma c'è il premio della giuria? Perché sennò speriamo vinca quello. Sì, c'è, ecco, il premio della giuria. Magari vince quello. E poi sai cosa c'è? C'è un premio che si chiama Barbara Dex. Sì. Perché Barbara Dex che è la sorella di Barbara D'Urso. No, Barbara Dex è nella storia rimasta per il suo abito orribile all'Eurovision. No. Quindi c'è peggio vestito. Sì. Oh. Quindi quando tu ne vedi uno vestito particolarmente male, tutti dicono: ah, questo vince il Barbara Dex. Che secondo me ci vorrebbe anche a Sanremo il peggior vestito. Comunque, dai, ragazzi, all'ascolto, questo è sempre RadioTube, hashtag RadioTube, et Marta Cagnola, et di Bellagio. Tu stai scaldando i motori perché sì, ci vai a Escita. Si parte l'8 maggio. E poi comunque perché in rete è comunque... Beh, cioè, un fenomeno. Gabbani, ma poi è un fenomeno europeo davvero. Cioè, ah, poi è uscito anche... C'ha l'album. L'album Magellano. Abbiamo intervistato, c'è cioè l'intervista. E secondo me l'intervista finisce in un posto che mi sta simpatico. Ma sì, c'è il video sul sito del Sole 24 Ore. www.ilsole24ore.com, mi raccomando, sì, e vedete il video di Marta che lo intervista. Abbiamo un bel Gabbani su Magellano, che peraltro appunto uscirà in tutta Europa. Va bene, auguri, no, a merda, in bocca al lupo. Tutto quello che si dice, in bocca al lupo. E invece tu devi sapere che questa settimana mi ha colpito, sì, una cosa, cosa perché che mi preoccupa. Sai Favij, lo conosci? Favij. Beh, sì. Favij, praticamente lui fa... Se qualcuno avesse passato gli ultimi anni su Marte, no, vabbè, Favij certo, è lo youtuber più amato dai ragazzi, dai, assolutamente, cioè, famoso in tutto il mondo, in America, film, roba del genere. Allora mi ha colpito, non so, magari non era nemmeno il primo, ma ha recensito un videogioco un po' particolare, diciamo, un videogioco che, ecco, non per bambini. Ma cos'è, Momento Zanzara? Non so se proprio arriva al top della zanzara, però ci abbiamo un pezzetto. Il pezzetto non vietato ai minori dei 18 anni. Mostriamolo alla radio, boh. Siamo su House Party, ragazzi, che è un gioco di una festa. La festa sembra piena di ragazze e la competizione maschile è veramente poca. Certo, ma che è un fantasy. La prima regola dovrebbe essere quella di trovare Madison e parlarle. Ciao Toto, regalo. Quindi ho una ricompensa. Aiutami a prencare mia sorella e ci sarà più di un bacio per te ad aspettarti quando avremo finito. Se capisci cosa intendo. Mai giocato a una roba così figa? Ashley Close. Cioè, capito? Diventano grandi questi YouTube. Stavo leggendo, stavo cercando, stavo googlando, sì, cercando notizie. Qualcuno lo definisce il gioco di fare lo sporcaccione alla festa. Ma sì, ci sono, esatto, queste cose qua. A un certo punto, poi tra l'altro, no, con però, i maschi allora, che fanno la solita figura. Vabbè, però io ci giocherei solo perché sono curiosa di vedere. No, ma deve essere fortissimo. Non lo so. Con il joystick, sensi. Ma guardi, ti caccio. Non questa è una trasmissione per educande. Da quando? Ad oggi. No, a un certo punto, lui dice che non può mostrare, ma è un videogioco, cioè è computer. Per questo voglio capire come è. Dice: "Ehi, non posso mostrare questa scena perché sennò poi il video diventa vietato ai minori". E allora inquadra col telefonino tenendo giù, ma una cosa assurda. Andate a vederlo se avete più di 18 anni. Ma poi cioè, la casa è fredda. Quello che fai ci sono, cioè fai punti? Sì. Cioè vince qualcuno. Oddio, da piccoli un po' giocavamo a quello. Ti capitava nelle estati, se le hai tenuto la mano, 3 punti. Sì. Ti capitava? No. Ma qualche amico l'avrai avuto. Ma magari lo facevano i maschi e noi lo facevano sapevamo. Voi sapevate sempre tutto di quello che facevano i maschi. Vero? Vabbè. No, io non lo sapevo. Vabbè. Invece, però la settimana hard, ecco. No, ma lo scherzo peggiore di tutti te. Ma come gli è venuto in mente? In studio ridevano. Non lo so. Allora, raccontami un po', Emma. Emma, amici, ha preso il posto di Morgan, intanto. Sì. Morgan è andato dall'altra parte. Questi sabati sera sono tutti Una guerra nucleare. Sì. E tra l'altro i siti di informazione su questo scherzo hanno perché esagerato. Poi ovviamente fai quello, ecco, che no, che brutta però poi questa shock. Cosa. Cliccate qua per guardare questa cosa che ci scandalizza moltissimo. E noi stessi lo stiamo per fare. Vabbè, però no, almeno però a noi non si vede, quindi non possiamo sfruttarlo più di tanto. Sentite. Però cioè, a parte che se mi tocca così tanto non riesco a cantare, però, cioè, diciamo che me l'ha già appoggiato 5-6 volte. Era un po' imbarazzante. Cioè, vedi, poi fare la bacchettona magari un po' meno, cioè, capisco la fisicità, però ci cioè, sono puntelli 5-6 volte. Diciamo che si è sentito. Ma povera Emma. Ma come gli viene in me? Ma che no, cavolo, a parte di scherzo, che io sono hashtag team Emma sempre. Ma sì, ma perché è fortissima. Emma è troppo simpatica, è troppo carina. Ciao Emma. Sì. Ma no, è uno scherzo? Diciamo che la televisione ogni tanto, magari però, anche con non accorgendosi, non c'è cattiveria, non lo so, però non, diciamo, no, non di questi tempi. Non lo so. Senti, un'altra piace. Cosa, questa settimana ha fatto un po' di... Molto casino sui social, Massimo sì. Mauro, perché ha detto questa cosa, vogliamo sentirla? Dai, sentiamola così cerchiamo di capire bene. Sky Sport? Sì. Sky Sport. Cicillo ha chiamato? No, Cicillo mi ha detto che è meglio la dialisi dell'Inter. Chi è Cicillo? No, no. È un tifoso dell'Inter, mio amico, 80 e passati, che sta facendo la dialisi, è disperato. Perché è tifosissimo dell'Inter e addirittura preferisce la dialisi a vedersi ormai le partite dell'Inter. Allora, ovviamente una frase infelice. Però Massimo Mauro, intanto, come mi ha ricordato Michele Dalai su Twitter, l'ha ricordato a tutti, è uno che da anni si occupa di cose legate alla beneficenza e tutto il resto, è Michele Dalai che saluto, compagno nerazzurro ovviamente. Io penso che Massimo Mauro volesse, come ha detto, raccontare l'esperienza di un suo amico, tanto che lo nomina, lo dice, voleva in un certo modo farlo diventare protagonista di una recensione post partita. Poi nell'esagerazione non si è accorto che è una cosa che ovviamente è una battuta infelice, ma io sono convinto che il suo spirito fosse di rendere partecipe del dibattito l'amico che ha citato. Io ti capisco, devo dirti che siccome purtroppo è un tema che mi riguarda moltissimo per ragioni familiari, mi riguarda veramente tanto, io non riesco ancora a vederlo grande serenità, non lo so, mi ha un po' ferito, però voglio dire, viva Cicillo che invece riesce a scherzarne, ecco. Ecco, l'hai preso da un altro lato ancora in cui non avevo pensato, che però è interessante. Cioè, mi piacerebbe conoscere Cicillo perché così mi insegna un po' come si può scherzare su questo tema. Mi piace molto, mi piace molto il tuo punto di vista. Allora, facciamo così: abbiamo un sacco di temi seri e sì, anche sorridenti in questo sì, RadioTube. Facciamo una brevissima tanti pausa. Ospiti, tre ospiti. Basta un attimo del traffico. C'è sì, il sì, traffico. Sì, poi è importante. Tre. Sabato pomeriggio, un sacco di gente in giro. E poi ci ritroviamo insieme con RadioTube. YouTube. Very, very proud of my father's advocacy long before he came to the presidency, but during the campaign, including in the primaries. Eccoci qua, rieccoci Daniele con RadioTube. Sai chi sta parlando? Beh, Ivanka. Trump. Ivanka sta parlando al G20 delle donne. Si è andata a fare un giro a Berlino, in Germania, sì, in qualità di first daughter, cioè no, di consigliere, non so bene, ce l'avrà un ruolo adesso, ed è andata a tra l'altro difendere il padre. Peraltro ha detto a un certo punto: dalla mia esperienza privata so quanto sia positivo l'atteggiamento di mio padre con le donne. Non è che la platea abbia preso ci abbia creduto totalmente benissimo questo, perché ci sono stati dei cenni di disapprovazione, però vabbè, la insomma, Merkel era, diciamo così, composta come sempre, la Merkel è sempre composta. Ma Ivanka Berlino ci serve perché? Ma perché parliamo di Ivanka, no, di perché, Berlino? Perché mentre tutti parlano di Trump, tutti parlano di Francia, qualcuno parla delle primarie italiane, il ha fatto una copertina sulla Germania che sembrerebbe non c'entrare assolutamente nulla. Tra l'altro, una copertina, una delle più belle di tutte il di tutti i tempi. Mostriamola alla radio. No, ce la facciamo raccontare perché mostrarla è imbarazzante alla radio. Allora ce la facciamo raccontare dal direttore di Il mensile del Sole 24 ore, Cristian Rocca. Ciao Cristian. Ciao Cristian. Ciao. Allora, com'è? Intanto scelta di parlare della Germania perché è un periodo in cui ovviamente stiamo facendo un overdose di Francia. Abbiamo parlato tanto di Brexit, sì, però sembra che di Germania alla fine si parli solo quando si toccano gli eurini in tasca. Sì. E male. Sì, diciamo, la verità è che volevo uscire con un'intervista a Emmanuel Macron, ma non mi ha dato l'intervista. Ah, però l'ha data al Sole 24. L'ha data al Sole 24, no, ma io ne volevo una da vincitore del primo turno. E insomma, però non me l'ha data, non sto scherzando. Abbiamo pensato di fare una copertina sulla Germania, perché di Germania si parla soltanto per stereotipi, appunto, si parla soltanto quando c'è da contestare l'unità monetaria, c'è da contestare le politiche di austerity di Bruxelles e così via. E quindi abbiamo chiesto ad un giornalista che vive lì, che si chiama Edoardo Toniolatti, di raccontarci perché questa Germania è la Germania, perché la Germania è la Germania. Proprio cercare di raccontarci le ragioni culturali, prima ancora che economiche, sociali e storiche, della potenza di questa nazione così importante. E la copertina che avete mostrato in radio è molto bella, perché come sapete i nostri grafici, i nostri designer sono tra i migliori del mondo. In questo caso li ho oversfruttati, cioè gli ho chiesto a uno dei grafici, all'art director Davide Mottes, non solo di disegnare questa copertina ma anche di fare da modello. Qui, no, ma stiamo svelando di chi è, sì, la gamba. Questa gamba che vedete in copertina è di Davide Mottes, che essendo di Trento era il più tedesco, diciamo, di no, ma spieghiamolo, cioè, non è che si vede tutta la gamba, si vede il piede con il classico calzino bianco, con il classico zoccolo quasi. Sì. Quindi con la Birkenstock, con diciamo la Birkenstock, sì. Sì. Quindi non vogliamo fare pubblicità, come si dice. Però hai preso il luogo comune, ovviamente volutamente. Certo. E può essere vista come una risposta dopo 20 anni, non so, forse 30 anni, alla famosa copertina di Der Spiegel. Der Spiegel, quella... No, al contrario. Quella con gli spaghetti lì, e la pistola. Spaghetti, la pistola, la mafia, eccetera. Quella era denigratoria di un, sì, paese. Invece qui abbiamo invece cercato di smontare tutti i luoghi comuni intorno alla Germania, e divertendoci abbiamo chiesto a questo grande fotografo italiano che si chiama Mattia Balsamini di organizzare un set fotografico, invece scherzando un po' sui luoghi comuni. Gli altri che vedrete nelle pagine interne sono la birra, le auto, gli gnomi da giardino, insomma ce ne sono tanti altri. In realtà poi invece il pezzo è molto contro tutto ciò. Poi in più abbiamo fatto un reportage di viaggio nel cuore della Germania. Siamo andati proprio, l'abbiamo attraversata da nord a sud e abbiamo raccontato un po' il lato hipster della Germania, cosa che fa un po' impressione a dirlo. Infatti, però insomma, abbiamo cercato di fare una cosa un po' diversa. Christian, tu che non sei proprio nordicissimo, sì, che impressione ti ha dato questa Germania dopo questo numero di Hill? Mi ha colpito la capacità, la loro capacità di aver interiorizzato, diciamo, la diffidenza che tutti gli altri hanno nei loro confronti. Mm-hmm. L'hanno interiorizzata e intorno a questo hanno costruito un nuovo modello di società che pare che funzioni. Allora, mi prendo due minuti di quelle domande che interessano soltanto a me, probabilmente. Ascoltatori, non so, fate no, quello chiedo che scusa, volete. Io vi chiedo quando di si parla di giornali, se... di solito giustamente si spegne, si guarda altrove. No, però anche se è una domanda alla Bellasio, sì, rimanete lì, non cambiate canale. Cioè, la domanda un po' provocatoria è questa: ma noi ci occupiamo di rete, YouTube, video, Twitter, tu twitti tantissimo, sei un influencer in rete. Ma un mensile, che significa fare un mensile quando tutti vanno velocissimi, oppure quando tutti dicono che ormai è tutto tempo reale, informazione, tutto digitale, tutto, quindi niente carta e quindi niente tempo? In effetti è la cosa più difficile, ma al contempo anche più bella da fare nel mondo giornalistico. Più difficile perché appunto non puoi programmare con un mese di anticipo, mi occupo adesso del numero che uscirà a giugno. E quindi è impossibile come dire, prevedere che cosa succede, ovviamente. Anticipo così tanto che le elezioni in Germania sono a settembre, per cui sono tranquillo. Detto questo, però, è molto bello perché è l'unico momento della mia giornata, quando penso al giornale da fare, di appunto stacco da Twitter, stacco dai social, stacco dal tempo reale e posso pensare un po' più a lungo raggio. Marta? No, Daniele, visto che prima hai citato anche delle elezioni che si stanno preparando da noi. No. Dici delle primarie, ma ci sarà la par condicio pure delle primarie? No, non credo, dai, non c'è la par condicio delle primarie. C'è la par condicio, Cristian? Non credo. Ma comunque spero. La violiamo. Violiamola, dai. Che no, perché sapere? Appunto non ne so nulla, raccontami qualcosa. Ma come sono state queste primarie, Cristian? Non so, sembrano un po' fuori dal resto. Boh, a parte scontate, si può dire? Beh sì, vince Renzi, no, si può dire, si può dire, so, dicendo dicono, dalla... dicono. No, insomma, la prima parte l'ha vinta. Devo dire che essendoci stato il precedente delle primarie del Partito Socialista, quindi quello alleato, fratello del Partito Democratico Italiano francese, dove ha vinto le primarie uno che poi dopo alle elezioni al primo turno ha preso quanto? Il 6%? 6,4%. Quindi insomma, forse c'è più che un qualche dubbio sul metodo delle primarie, qualche dubbio sul corpo elettorale, perché se scelgono uno che poi prende il 6% vuol dire che hanno scelto male. E ultimamente, con l'eccezione del primo turno delle elezioni francesi, quasi sempre il corpo elettorale sceglie delle cose, non so se si può dire, non lo so, assurde. Vuoi contestare la democrazia? Assurde, sì, no, non contesto la democrazia, perché dico, però posso però... anche avere il diritto di dire che è assurdo. Ma cioè, stai parlando di America? America, Brexit, ma i primi 100 dicembre. Giorni di Trump sono stati così assurdi? Beh, non ha fatto niente, quindi non questa ha... è una delle critiche più pesanti. Nulla. Che fanno ha fatto una sola cosa buona, diciamo, che ha portato a casa la nomina di uno dei giudici della Corte Suprema, tra l'altro non un fuori di testa ma un giurista conservatore, cosa abbastanza strana perché appunto fino adesso aveva nominato soltanto persone un po' al limite. Poi non ha fatto niente, ha appena presentato un piano rivoluzionario di riduzione delle tasse senza alcuna copertura, l'ha fatta proprio dentro i 100 giorni per poter dire almeno ho presentato questo, poi non ha fatto niente. Per quelli che hanno invece cercato di trovare un'affinità tra quello che è successo in Francia, la situazione dei partiti italiani, giusto, tu come la giusto. Vedi? Macron e Renzi? Renzi e Macron? Beh sì, diciamo più che Macron e Renzi, come Macron si è ispirato apertissimamente a Renzi nel programma e in tutto quanto. C'era un articolo di Giuliano Ferrara che diceva non è vero che è un provinciale dire che Macron e Renzi si sono somigliano, Trump e Berlusconi si somigliano. La verità è che l'Italia ha sempre fatto prima degli altri, si possono fare anche degli esempi nel passato, tipo il fascismo, ha anticipato dei trend che si sono poi dispiegati in altre nazioni. Il modello di Macron è esattamente uguale a quello di Renzi. La differenza è che Macron l'ha fatto fuori dal Partito Socialista e Renzi ha buttato fuori quelli del Partito Comunista, diciamo, che facevano parte. Ha buttato fuori? Beh, sì. Sono usciti, cioè li ha costretti fatto, in una minoranza tale da essere scomoda, diciamo. Cambiando i connotati rispetto alla tradizione PC, PDS, DS di quel partito, alcuni esponenti di questo partito sono usciti, e come Mélenchon in Francia, che viene anche lui dal Partito Socialista, sono usciti, insomma, e poi il risultato. Ma secondo te lui è pentito di averlo fatto all'interno del partito piuttosto di aver fatto una scelta simile a quella di Macron? Perché c'è chi dice avrebbe fatto meglio. Beh, se la sua traiettoria politica fosse partita adesso, pochi mesi fa, sì, avrebbe fatto meglio a farlo fuori. Ma lui ha cominciato 3 anni fa, quando ancora non c'era questo gioco allo sfascio e insomma, di buttare tutto, di rottamare tutto, per usare la frase che lui usava, e che ha avuto, diciamo, abbastanza successo anche fuori dal suo perimetro. Detto questo, mi sembra più coerente questo, fare, se vuoi, la stessa cosa. A destra ha fatto Trump col Partito Repubblicano. Certo, Trump vero, non si è candidato da solo contro i repubblicani, è andato nel mondo conservatore, si è candidato alle primarie repubblicane e ha sbaragliato tutti. Quindi, se vuoi, possiamo arrivare a questa conclusione che che non solo Macron è come Renzi, ma anche Trump è come Renzi. E direi che a questo punto il partito della nazione, tu il partito dell'internazione. Esatto. Allora, io ho preso appunti, mi è piaciuta molto questa interpretazione. Allora, ringraziamo Cristian Rocca. In edicola, Rocca. Andate sì, in edicola. In edicola c'è il mensile del Sole Insieme 24 al Sole Ore. 24 Ore. Con questa copertina bellissima, con questo polpacciotto. Tu hai detto che, insomma, non è grave, però la Birkenstock col calzino, sai che per noi comunque, ma noi fa comunque per un voi certo... donne soprattutto sì, a noi fa è una cosa un che effetto, ma non lo so, io la calza che bianca di fadillo, però, no no, ma mi disturba proprio, mi disturba proprio tantissimo. Ma le copertine hanno fatte per disturbare, certo, sono d'accordo. Grazie, grazie a Cristian Rocca, alla prossima. Ciao. Noi facciamo una breve pausa, poi saremo ancora insieme. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, ha il record del mondo. Garozzo eccelle, la stoccata, la conferma, la stoccata. Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci e vi aspetta a Olimpia ogni domenica alle 20:30, naturalmente qui. Su Radio 24. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta. Ascolto Gianluca perché sono socievole ma non sono social. Perché a Grosseto Radio 24 si sente bene. Perché quando corro vorrei essere un gabbiano. Ascolto Gianluca perché ci devo pensare. Perché mentre rifaccio il letto mi chiedo se anch'io sono tutta da rifare. Ascolto Gianluca perché quando mi lavo i denti penso alla mia vita. Devo mangiare di meno. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Radio Tube. Bentornati a Radio Tube dopo una prima mezz'ora con un sacco di argomenti, un sacco di temi così nella nostra pentolina. Adesso vorrei... Cambiamo. Parliamo di politica. Non è tanto di politica. Ma intanto ricordiamo et Marta Cagnola, et di Bellasio, hashtag Radio Tube e hashtag ISDV se volete commentare tutto, sì, il sabato del villaggio. Tutto il sabato del villaggio. No, è l'appuntamento fisso. Siccome lui fa questi libri... come si può dire, contro certi luoghi comuni, però nello stesso tempo raccontandoli con un'ironia che ci piace, noi ci prendiamo ogni tanto delle pause rispetto alle cose video, anche se lui lavora con la televisione. Certo, certo. E ci occupiamo di un libro adesso. Allora, hai detto non tanto politica, è un po' politica, un po' costume, cultura e società, storia contemporanea. Però lui è un appassionato di politica dal punto di vista storico, si vede, perché tutte le volte va indietro anche nella storia. Questa volta, l'altra volta si era occupato della misoginia, neanche, come si può dire? Ma insomma, sì, della misoginia in politica. Il titolo del suo saggio era "Sta zitta e vai in cucina" per Bollati Boringhieri. E adesso invece tratta un argomento ancora più delicato, ovvero l'omofobia in politica, ma in tutta la politica, perché di solito si pensa che sia soltanto di una parte, piuttosto che sia solo oggi, invece ieri allora, soprattutto. Il titolo del suo libro è "Ho molti amici gay", sì. Una frase che torna e che ritorna, sì. Diamo il bentornato a RadioTube a Filippo Maria Battaglia. Ciao. Buonasera, buongiorno, insomma quello che è a quest'ora. Ciao Filippo Maria. Grazie, bentrovati. Allora, intanto giornalista della redazione di Sky TG24, esperto di politica eccetera, ma come ti è nata questa idea? È nata dall'idea appunto di continuare il discorso che avevo iniziato con "Stai zitta e vai in cucina", di affrontare l'altra piaga dell'Italia, della comunicazione e anche delle legislature italiane, che è quella appunto dell'omofobia. L'Italia è il paese più omofobo, con la classe dirigente più omofoba in Europa dopo la Lituania. E quindi mi sembra, questi sono dati dell'Agenzia dei diritti umani dell'Unione Europea, e quindi mi sembrava interessante provare a ricostruire negli ultimi 70 anni cosa era successo in Italia e da dove partivamo e perché siamo arrivati a questo punto. Ecco, ma intanto diciamo, è una storia in evoluzione positiva o è una storia in evoluzione non così positiva come ci si potrebbe attendere? È una storia sicuramente in evoluzione positiva, cioè la cosa più sorprendente in questo libro non arrivano tanto dagli anni 50, cioè immaginare che uno come Togliatti o uno come Berlinguer insultasse il proprio avversario politico definendolo invertito, pederasta, fa un certo effetto, però è inquadrato in un contesto come quello europeo nel quale la Gran Bretagna aveva delle norme contro l'omosessualità, la Francia lo stesso, la Germania non ne parliamo. Quelle cose che più fanno sorpresa, insomma, che rendono forse, ci lasciano un attimo di stucco, arrivano nel 2000, nel 2005, cioè pensare che nel 2000 un sindaco come Rutelli, da sindaco di Roma con un passato radicale, decide di ritirare il patrocinio del World Pride, sostanzialmente accogliendo le critiche del fronte cattolico che diceva no, nell'anno del giubileo no, fa un po' effetto, no? Così come fa effetto sentire Massimo D'Alema nel 2006, da vicepremier del governo Prodi, dire che le unioni civili, lì allora si chiamavano Dico, erano questioni insomma marginali rispetto ai problemi del paese. Ci siamo fatti incastrare in problemi marginali rispetto ai veri temi del paese, cioè le stesse identiche frasi che dice Salvini oggi. Ecco, a me il passato prossimo fa più effetto del passato remoto. Allora, destra e sinistra, si racconta che a metà degli anni 90 il neodeputato di AN Francesco Storace, incalzato alla fine della trasmissione Porta a Porta da un paio di giornalisti che gli chiedevano mitica. Storà di qualcosa di destra, rispose senza esitare con un secco "a froci". Vabbè, ma quello è diverso. E quindi, esatto, quindi lui gioca, diciamo così, sullo stereotipo. Ma da questo libro viene fuori cosa? Che destra e sinistra come stanno messe? Destra e sinistra non sono sullo stesso livello. A sinistra l'omofobia è molto meno radicata. In passato invece erano assolutamente allineati. Un esempio su tutti, sul centrodestra. Nel 2004 noi abbiamo avuto la fortuna di avere un ministro del governo Berlusconi che insultava gli omosessuali o gli europarlamentari definendoli appunto culattoni in un comunicato stampa ufficiale del governo, dicendo "povera Europa, i culattoni sono la maggioranza", protestando così per la mancata elezione di Rocco Buttiglione a commissario europeo. Quindi le sfumature sono diverse a destra e a sinistra, però ecco, l'idea che la sinistra sia immune da questo tic, da questo vizio di forma e di sostanza culturale è un miraggio, esattamente come accade nel maschilismo. Noi siamo soliti pensare che certe cose accadono solo da una parte politica. No, purtroppo non è così. Tu fai anche un confronto con gli altri paesi europei nell'ultimo capitolo. C'è da dire che in questi giorni, con le polemiche relative a Macron, qualcuno ha tirato fuori in Francia, in realtà la sua liaison con Brigitte non sarebbe solo scandalosa per la differenza d'età, e vabbè, qui ne abbiamo parlato a lungo, ma sarebbe una copertura per una sua presunta omosessualità. Tutto questo gossip in Francia, quindi alla fine anche oltre Alpe se ne sta parlando, si sta venendo fuori questa cosa. Sì, la Francia sotto questo punto di vista è, diciamo, distante dall'Italia, nel senso che è messa un po' meglio. Ha avuto un sindaco della Noe. Però non è messa benissimo come ad esempio la Germania o i paesi scandinavi. Noi, diciamo, questa è una mia idea, ma la classe dirigente francese è molto simile per certi aspetti, anche per certi tic, certi vizi, a quella italiana, però certamente è messa meglio, ecco. Tu hai citato ovviamente questo episodio, se ne potrebbe citare anche qualcos'altro, però resta il fatto che comunque la Francia è avanti all'Italia sotto questo punto di vista. Senti, ci racconti un po' come nasce la tua passione per... ti piace trovare dei filoni storici italiani e andare a trovare all'interno di questi filoni le cose appunto sorprendenti, quello di sinistra che dice la cosa di destra, quello di destra che magari dice la cosa di sinistra. Come nasce? Com'è che ti metti lì, parti dall'idea, parti da un tema di forte attualità? Perché stai creando un tuo piccolo genere letterario, piccolo nel senso che sei da solo a farlo, però hai inventato un po' un modo per scrivere libri, saggi. Guarda, io cerco di sfatare qualche luogo comune. Quindi è quello che ti piace, sfatare, sì, i luoghi comuni. La situazione è simile a quella appunto di Stai zitta e va in cucina con il maschilismo, appunto molti amici gay e l'omofobia è la stessa identica cosa. Era capitato anche con Bisogna saper perdere sulla sconfitta, cioè l'idea innanzitutto esatto. che la politica è brutta, sporca e cattiva e invece la società è bellissima e straordinaria e va presa come esempio. No, purtroppo la politica rappresenta la società, anche se la politica prova a rappresentarla al peggio, però sono simili. Infatti anche in questo caso i dati Istat fotografano una realtà, diciamo, dei cittadini italiani simili a quella della politica. Questo è sicuramente una cosa che mi interessa sfatare, ma anche un altro tema, cioè quello di pensare che la politica negli ultimi anni in Italia sia peggiorata in un modo devastante. Questa cosa qui la dicevano anche negli anni 60 i politici prefascisti, riferendosi ai costituenti. Ora, si stava sempre meglio quando si stava peggio. Non è così, cioè i dati, i numeri ci fotografano una realtà che è più complessa e che va appunto ridimensionata al suo reale valore. Quindi diciamo le due direzioni sono queste qui. Tornando indietro a Sta zitta e va in cucina, hai continuato vicino a te? Hai continuato a monitorare. Esatto, perché ci eravamo lasciati dicendo vero, che comunque brava. Era un work in progress. Brava. Hai continuato a prendere appunti? Sì, devo dire che questi politici italiani mi hanno dato una grande opportunità. Libro adesso è alla sesta edizione, anche grazie probabilmente alle uscite, perché ogni volta che ce n'era una qualcuno si ricordava di Stai zitta e va in cucina e diceva il precedente. Mi hanno aiutato purtroppo sotto questo punto di vista. La situazione non è ancora migliorata, soprattutto quando il dibattito politico si accende, no? si riscalda un attimo, l'insulto sessista, così come l'insulto omofobo, capita anche con molti amici gay di trovare questa dinamica, e scatta dall'avversario nei confronti del politico. Allora, cari radioascoltatori, voi dovete sapere che Filippo Maria Battaglia si sta candidando a diventare un po' il Wikipedia di alcuni giornalisti che devono fare il classico pezzo di costume quando c'è la battuta contro il politico donna, allora devi fare il classico pezzo tutte le volte. I precedenti. Allora vanno tutti a prendere, nella libreria avranno tutti i libri di Filippo Maria Battaglia e quando c'è quel pezzo lì scartabellano e via. Quindi non ti chiediamo quale sarà il prossimo. No, almeno però sapere se ci stai già pensando, se hai già delle ricerche, se stai già facendo ricerche su qualcosa. Giuro che ancora non... Lo sport, io ti suggerisco lo sport e la politica nella storia, secondo me quello è un grandissimo tema. Cioè, prendo nota. dai compiti. Facciamo assieme, magari, non lo so. Ma quello è un grandissimo tema che ritorna con i luoghi comuni da sfatare, perché ci sono politici del passato che sono stati grandi sportivi. Invece sembra che solo con Berlusconi arriva lo sport in politica. Figuriamo. Bello, bello, mi piace, leggerei anche questo. Però lì è più difficile fare la controtendenza del luogo comune, e quindi forse da un punto di vista sociale e civico svolgi un lavoro più importante se vai a prendere appunto l'omofobia, la misoginia, l'incapacità di perdere, che è un enorme problema in Italia nella politica come nello sport. Noi interisti siamo capacissimi. Sei molto sensibile. Allora io però voglio ricordare, vai, ho molti amici gay di Filippo Maria Battaglia che torneranno l'anno prossimo con il prossimo alla grande, perché gli fanno fare i libri per venire a RadioTube. Ma straordinario, abbiamo una responsabilità. Grazie. Filippo Maria, buon lavoro. Complimenti. Grazie a voi. Bravo. Grazie a voi. Ciao. È proprio enciclopedico questo. Molto enciclopedico, però con tanta ironia, cosa che un Wikipedia non potrà mai avere. Adesso no. Traffico. Allora, una brevissima pausa, traffico, e poi parliamo di qualcosa di succoso, ma tra poco. YouTube. I think that I may be the voice of my generation. Or at least a voice of a generation. I am going to look 50 when I'm 30 because I'm going to be full of experiences. I may not seem okay and I may not be okay now, but I am okay. Beh, allora io già mi emoziono ascoltando queste brevissime frasi. Allora, si è conclusa, Daniele? Cosa? È finita Girls. No. Una serie, dimmi a meno di che parla. Negli Stati Uniti si è conclusa questa serie che ha lanciato la sua ideatrice protagonista, che è diventata una delle voci più significative della sua generazione. Come diceva, io voglio diventare, sento di essere la voce di una della mia generazione, o almeno di una generazione. Lena Dunham. Ah, famosissima. Ma di che parla Girl? Metti che uno non l'abbia mai visto, si collega ora. Sì, anche perché poi in Italia è un pochino indietro. Allora, la storia di alcune ragazze che gravitano attorno a questa Anna, giovane scrittrice, un po' perdigiorno, di grande talento, ma così è un po' arruffata nella vita, ne combina di tutti i colori in maniera un po' sciatta, un po' distratta, un po' svogliata, ma con questo grande talento che poi alla fine le fa trovare delle risorse importanti. Succedono sia a lei che alle sue amiche un po' di tutti i colori. Ma tipo Sex and the City del 2010? No. Forse mutatis mutandis, no. non è tipo così, a cosa il tono somiglia? Non è, no, guarda, posso dirti che il tono non è così allegro, è sempre invece un po' più scuro, un po' più così negli anni della crisi, insomma, mi sembra così abbastanza in tono con i tempi che abbiamo vissuto negli ultimi anni, ma è successo qualcosa di importante. Tipo? È successo che c'è stato il finale, e non so se sai che spesso negli Stati Uniti, quando c'è la puntata finale di una serie, e il pubblico non è contento. Eh no, ci credo. Perché il finale deve essere... No, ma non solo perché finisce. Non ma... va mai bene. No, ma perché il finale deve essere una puntata pazzesca. E invece magari lo showrunner, come dite voi, o lo sceneggiatore quel giorno, niente. Oppure fare una scelta un po' strana, un in po' questo che caso... non rende tutti contenti. In questo caso, allora, facciamo un po' di spoiler. La scorsa settimana un'ascoltatrice, Nonna Pina, mi ha chiesto: ma cos'è lo spoiler? Allora, quando rovini la sorpresa, sveli un po'. Però ormai di questo si è parlato su tutti i giornali, quindi lo spoiler è stato fatto ampiamente. Perché ha deluso un po' il finale di Girls, e perché questa cosa ricorre nelle serie televisive americane, lo chiediamo subito alla nostra carissima amica di RadioTube. Scrive sul Corriere della Sera, Annessi e Connessi, lettura dappertutto, la nostra Costanza Rizzaccada d'Orsogna. Ciao Costanza! Finalmente ciao, tornata! Ciao, ciao! Finalmente, ti risentiamo! Eccola qua! Allora Costanza... ormai l'hanno svelato tutti cosa succede nel finale di Girls. Perché questa scelta? Ce lo dite pure a noi o ve lo tenete per voi? No, lo diciamo anche a te, anche se Costanza ne ha scritto, quindi si sa. Allora Costanza, cosa succede? Eh, succede che Anna ha un bambino, noi non vediamo la scena del parto, Anna era rimasta incinta a poche puntate dalla fine e ha un bambino, dopo insomma si avanza 5 mesi, quando questo bambino ha già 5 mesi, e però ecco, le ragazze si lasciano, si salutano perché tutte proseguono per le loro vite diverse, quindi lasciano anche New York City, e nell'ultima puntata abbiamo visto Lina che si trasferisce upstate, nella Zone Valley, in una cittadina dove avrà questo bambino, insomma vive questa vita campagnola con questo bambino. Chiaramente però non è ridente, insomma, perché chiaramente Lina è sempre Lina, e quindi sarà anche lei, come al suo solito, insomma, ingrata, insopportabile, come un po' sono state queste quattro, queste protagoniste, insomma, che non abbiamo mai amato del tutto, ecco, non erano state così simpatetiche come altri personaggi. Tu hai scritto del maternity plot, cioè il fatto che a un certo punto in tutte le serie televisive con protagoniste delle donne, la crescita della protagonista passa per il fatto di avere un bambino, insomma, non in tutte o quasi. In moltissime, e soprattutto di Girls non ce lo si aspettava, proprio per come erano i presupposti di Girls, una serie estremamente progressista. Sono concorsi un po' di fattori, non da poco il fatto che il regista fosse Jude Apatow, che è uno conservatore, insomma, sotto mentite spoglie, quello che ha fatto Trainwreck, per esempio, con Amy Schumer, dove appunto l'ha un po' rovinato perché lei aveva scritto questa sceneggiatura, questo film, insomma, della donna fallita che mangia sul piatto, mangia sulla tazza del water, eccetera, non ne combina una giusta, però poi lui fa in modo che poi lei alla fine si conformizzi e diventi una ragazza perfetta da marito, eccetera, eccetera, in qualche modo così. E poi c'è il pregnancy plot, che è proprio una iattura, diciamo, delle serie televisive. Una iattura addirittura. Ma sai perché? Perché in realtà il problema non è che lei resti incinta, ma il fatto è che questa cosa del restare incinta avviene soprattutto verso la fine della serie, quando lei resta incinta, poi magari c'è una scena subliminale di parto, grida, eccetera, la TV è bravissima a fare queste cose, però poi non fa vedere quello che succede dopo, non fa vedere quanto sia, per esempio, difficile, no? Lina vuole fare la scrittrice, perché poi queste cose succedono soprattutto quando la protagonista è una che ambisce a fare la scrittrice, per un altro grandissimo cliché, oltre a quello del pregnancy plot, che è il discorso che se sei una mamma non puoi fare la scrittrice. E quindi queste due cose si assommano e vanno a rendere un finale molto molto conformista di Girls che nessuno si aspettava negli Stati Uniti, e sono rimasti abbastanza delusi, quasi tutti abbastanza delusi. Dal conformismo del finale di Girls ha invece un'altra notizia che riguarda le serie TV e che ha veramente fatto scalpore, ha fatto un po' storia. Insomma, abbiamo parlato con Filippo Maria Battaglia del suo libro Ho molti amici gay, qui invece facciamo un altro passo in più. Billions, che so che Daniele segue molto. Sì, però la seconda non mi è piaciuta. Non io piaciuta? Lo dico. No, eh? No, in regia piace, ma io sono scettico. La svolta non so neanche definire. Psico noir mi ha convinto poco, però. Possiamo però dire che il personaggio di Taylor è quello che ha salvato. Io sono d'accordo con te, la seconda stagione è assolutamente più piatta, però c'è il personaggio di Taylor, il primo personaggio genderqueer della TV. Infatti dicevo, da un certo punto di vista c'è questo conformismo di Girls, e poi invece c'è Taylor di Billions, sì. Che è una grandissima novità, è la prima volta questo genere non binario. Lei esordisce nel primo episodio dicendo: sono Taylor, per favore chiamatemi con il pronome lei, con il pronome loro, e non avevamo visto un personaggio del genere. E poi secondo me c'è un'altra cosa, che Maggie Seaf, che è Wendy, la moglie di Chuck, del procuratore, secondo me sia Taylor che poi Wendy sono le persone che reggono la seconda stagione di Billions. Assolutamente, perché mettono la genialità nel mistero. E poi ci sono due teenager, una di ieri e una di oggi, che hanno fatto notizia questa settimana nelle serie TV. Una ancora questa settimana si parla tantissimo di 13, questa serie di Netflix. Ne abbiamo parlato... Dallo sguardo si capisce che è tosta. È tostissima, sì, la storia. Una storia di adolescenti, parla di suicidio, parla di bullismo. Ne abbiamo parlato nel Sabato del Villaggio di qualche settimana fa. Abbiamo anche avuto ospiti i protagonisti. E poi... un adolescente di ieri che purtroppo è venuta a mancare, Joni, di Happy Days. Beh, vabbè, se ne è parlato tanto. Grande, vabbè, sentiamo la sigla. Grazie Filippo. La grande nostalgia in rete, Costanza, insomma, tutti molto colpiti da questa da questa scomparsa. Tu parli un po' di colpiti, stavamo appunto dicendo appunto in rete la sottilezza di Happy Days, no? Una delle poche volte quando un soprannome riesce anche nella traduzione. In inglese è Shortcake, che è un dessert famoso, insomma, rustico, il fashion, eccetera. Non avrebbe mai retto, come dire, se tradotto letteralmente, non avrebbe mai avuto fortuna. Invece hanno avuto questa genialità di chiamarla sottiletta, e ha fatto la fortuna del personaggio anche in Italia. E poi, vabbè, Happy Days ha dato anche proprio uno dei tweet più belli, secondo me, e non c'entrava niente con la serie, con i personaggi della serie, quelli veri, gli attori, eccetera. Ma una twittera americana ha scritto: nessuno più ama Ciaci, perché uno dei follow up, uno degli spin off di Happy Days allora fu appunto Johnny Love Ciaci, anche perché poi abbiamo visto, insomma, Scorbeio come è finito, trumpista, eccetera eccetera. Vabbè, c'è di sembra una malattia, poi detta ha così. Fatto anche una gaffe perché non sapeva, vabbè, non però, buttatela allora, sempre in politica. Io, a me piaceva talmente tanto Jenny e Ciaci, si chiamava o Ciaci, quello chiamavamo in Italia, che cantavano una canzone. E da piccola mi piaceva talmente tanto quella canzone che io mi ricordo di averla registrata. Ti ricordi quei registratori con i tastoni e le cassettine? E tu cantavi? No, io l'avevo registrata dalla TV col registratore per riascoltarmela. All'epoca si usava così, non è che avessimo altro. No, infatti. Anche perché ho detto, somiglia a Johnny. Sì, un po' di sottiletta ce l'abbiamo. Ma invece 13 dai. Perché fa notizia, non ho capito? Fa notizia perché è veramente il fenomeno del momento. Tra l'altro, in molti paesi c'è il dibattito. Ha contribuito a svegliare le coscienze sul problema del bullismo e dei suicidi tra i giovani, invece in altri paesi si dice rende romantica l'idea del suicidio tra gli adolescenti. Tantissimi dibattiti su 13. Anche perché tutti i ragazzini si ritrovano nella serie, e il discorso è portarlo o non portarlo sullo schermo, perché rischia anche l'emulazione, il discorso del suicidio. Questa serie è particolarmente vera. E però sai che c'è una cosa curiosa, tu parlavi di audiocassette, è la serie che ha fatto scoprire ai ragazzini che cosa siano le audiocassette, loro non lo sapevano. Sì, prima in regia stava circolando un Walkman, ma sai che ne ho trovato uno anch'io a casa, quando l'ho trovato ero felicissimo. Ecco, quando vedrai 13 vedrai che il Walkman è il protagonista della serie insieme ai ragazzi. Stupendo, ma allora subito vado. Sì. Addirittura il New York Times l'altro giorno raccontava di questo episodio di un ragazzino che ha visto da Walmart un pacco di audiocassette, le ha comprate, e in questo mondo dove dobbiamo stupire il più possibile, no? Allora lui voleva invitare al ballo della scuola la sua ragazza, insomma, ha registrato tutte queste cassette, 13 ragioni per cui, perché il titolo della serie originale è 13 Reasons Why, 13 ragioni per cui devi venire al ballo con me, ed è piaciuto tantissimo, ha fatto decine di migliaia di retweet, ma appunto ha dato ai ragazzini l'idea di cosa fossero. Ma questo è bellissimo. Ma fatelo, fatelo, andate a comprare videocassette, anche i vinili, le audiocassette. Ma no, stupendi, ma una roba bellissima. In effetti allora si faceva, no? Che tu facevi la compilation, no, l'EP3, come si chiama adesso? Sì, la playlist era la cassetta. Sì, tagliamo, dobbiamo salutare. Finito, no, ma tempo. Torna Costanza. Salutiamo Costanza. Alla Costanza Rizza Casa d'Orsogna, ciao. Torna con noi, ciao, presto. Ciao. Un bacio. Invece RadioTube forse no, torna. No, torna la prossima settimana, e invece Sabato del Villaggio alle 15, RadioTube alle 17. Grazie a Cristian Goldoni, grazie a Filippo Aureggi, al prossimo sabato. Ciao.